2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 in replica. Trovate una ricca versione in podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Devo dire che molti dei nostri ascoltatori che preferiscono e scelgono la versione in podcast sono degli sportivi e quindi in queste settimane, perché sarà ancora molto lunga, in queste settimane sono costretti se non a eliminare qualsiasi attività fisica ma a ridurla fortemente perché, lo ricordiamo, vi invitiamo a rimanere il più possibile in casa, le attività fisiche, sportive sono limitate a qualche centinaio di metri attorno a casa, quindi capisco che è una cosa per alcuni che fa soffrire, però è così. Saranno fortunati quelli che abitano in campagna o nelle montagne, che sono un po' più liberi rispetto a chi sta in paesi o città. Potete scrivermi a 2024@radio24.it, approfittando anche del maggior tempo che abbiamo in questi giorni, oppure LinkedIn, Facebook o Twitter, cercate 2024 Enrico Pagliarini. Se non impossibile, è molto complicato trovare notizie che non abbiano a che fare con il coronavirus. Comunque abbiamo come sempre all'inizio della nostra puntata la nostra rubrica in cui condensiamo alcune delle notizie che selezioniamo durante la settimana. Digital News. Con un alto numero di persone che lavorano da casa, studenti che seguono le lezioni online, ma tanti che guardano video o giocano in rete in tutte le ore della giornata, internet è sotto pressione in tutta Europa. Anche questa settimana non abbiamo fatto il giro di telefonate e email ai principali operatori, ma si confermano i trend di crescita e devo dire che si moltiplicano gli appelli ad un uso moderato di questa risorsa. Non solo in Italia, ma almeno in Francia e in Spagna ho letto parecchi appelli di operatori che dicono agli utenti che chiedono di usare internet con moderazione. Allora, considerate che circa 2/3 del traffico è costituito da servizi in streaming video. Netflix e YouTube coprono da sole 1/4 del mercato. Netflix è il primo operatore mondiale, diciamo tallonato da YouTube, grosso modo entrambi hanno una quota, uno del 13%, l'altro del 12%, quindi 1/4 del mercato lo fanno questi due operatori. Entrambe queste aziende, che sono state poi seguite anche da Amazon Prime Now, che però non ha un peso così importante, siamo attorno al 5-7%, hanno accolto l'appello del commissario europeo al digitale, il francese Thierry Breton, che ha appunto chiesto di ridurre il bitrate, e queste società hanno deciso di abbassare la qualità video per alleggerire le reti internet europee. In particolare YouTube ha detto che proporrà la qualità a livello standard come impostazione predefinita, mentre Netflix manterrà sia l'alta definizione, il 4K, ma ad una qualità inferiore comprimendo di più il segnale. Quindi dipende poi anche da che televisore avete, se ve ne accorgete o no, o anche da che occhio avete. Comunque, tutte queste società hanno dichiarato di mantenere un livello accettabile di visione, però contribuiscono sicuramente ad alleggerire la rete internet in Europa. Allora, la Walt Disney ha deciso di rinviare in India il lancio del nuovo servizio di streaming Disney Plus, che sarebbe dovuto partire il 29 marzo. Allora, la motivazione è legata, diciamo indirettamente, alla diffusione del coronavirus, perché direttamente il rinvio è stato motivato da un altro rinvio al 15 aprile di un importante torneo di cricket. Sapete che il cricket è lo sport più seguito in India e Disney Plus verrà quindi rinviata. Per il momento è confermato il lancio il 24 marzo in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, ma Stéphane Richard, che è l'amministratore delegato di Orange, considerate che Orange è uno dei più grossi operatori di telecomunicazioni più importanti d'Europa e più importante in Francia, allora Stéphane Richard ha chiesto a Disney di rinviare di alcune settimane il lancio in Francia per evitare un ulteriore appesantimento della rete. perché appunto con le misure che sono state prese anche in Francia, uguali all'Italia, e quindi il conseguente aumento del telelavoro, più persone che videogiocano, che guardano film, che stanno in casa a seguire lezioni, eccetera, eccetera, le reti sono veramente messe a dura prova. Ci sono altre tre notizie che abbiamo selezionato questa settimana. Una riguarda l'israeliana Quantum Machines, che sviluppa hardware e software per i computer quantistici e ha raccolto finanziamenti per 17,5 milioni di dollari. In questo momento molte delle startup, è una startup anche questa, molte startup che si occupano di quantum computing, diciamo che appaiono agli occhi degli investitori particolarmente interessanti, molto sexy, e quindi sono in qualche modo, non dico facilitate, ma comunque forse un po' meno difficile ricevere finanziamenti. Sempre in Israele, da segnalare che Axis Security, che si occupa di problematiche legate ad applicazioni aziendali, ovviamente di cyber security, ha raccolto 17 milioni. Un'ultima notizia riguarda la Toyota, la giapponese Toyota, che svilupperà assieme alla cinese Momenta, che è una startup che si occupa di guida autonoma, mappe in alta definizione per il mercato cinese. La scorsa settimana abbiamo parlato di come la tecnologia può essere utilizzata e come è stata o viene utilizzata in Cina, Corea del Sud, Singapore, Taiwan e anche in Israele per cercare di interrompere le linee di contagio del coronavirus. Sostanzialmente in due modi. Uno è quello di applicazioni che servono per garantire che chi deve stare in quarantena non esca di casa. Il secondo modo in cui viene usata questa tecnologia, la tecnologia mobile, è quello di tracciare i percorsi di chi è stato contagiato per individuare tutti o molti dei possibili altri contagiati che il contagiato ha incontrato durante il tragitto e che quindi, insomma, potenzialmente potrebbero essere altri contagiati. Ovviamente in questa fase il migliore rimedio è rimanere in casa, ma visto che prima o poi dovremo gradualmente tornare alla vita normale, ci si interroga su come fare per evitare di fare ripartire il contagio. Allora, ci sono molte discussioni in corso, molte proposte, alcuni stanno sviluppando applicazioni, quando saranno pronte ne parleremo anche al 2024, perché per il momento non c'è nessuna applicazione già pronta, già sviluppata. Anche al Ministero dell'Interno non c'è alcun progetto avviato. Ricordo che quando si tratta di geolocalizzazione le chiavi ce le ha il Ministero dell'Interno, quindi tutto deve passare di lì e le decisioni devono essere prese lì. Visto che quando parliamo di geolocalizzazioni, ad esempio in caso di emergenza oppure nel caso di indagini, la competenza tecnologica anche sta in capo al Ministero dell'Interno. Allora, tutte queste cose possono essere fatte con diversi gradi di invasione della privacy, anche se devo dire che fra le proposte che ho letto in questi ultimi giorni ci sono soluzioni che non sarebbero nemmeno troppo invasive. C'è un dibattito molto acceso sull'opportunità e anche l'utilità, perché non tutti sono d'accordo che questi sistemi siano così utili. Ad esempio c'è chi fa notare che in Giappone, con la disciplina della distanza sociale, con tutte le precauzioni e le protezioni, l'uso della mascherina, il lavaggio sempre delle mani, la distanza eccetera eccetera, i giapponesi si stiano tenendo sotto controllo senza bisogno di nessun tipo di tecnologia che invada la privacy. Ma visto che si parla molto del caso coreano, beh, allora andiamo in Corea, Seul. Grazia Accardo è una ricercatrice presso il Korea Institute of Science and Technology e ho fatto una chiacchierata con lei per capire come viene fatto il tracciamento dei positivi in Corea del Sud. Questa app, oltre a indicare il numero di persone contagiate, l'eventuale numero di persone guarite, era in grado anche di fornire delle informazioni riguardante la localizzazione di queste persone e quali spostamenti avevano effettuato, nonché il genere, quindi uomini, donne, l'età, e quindi altre informazioni che potevano essere molto utili. Successivamente è stata diffusa anche un'altra applicazione che si chiama CoronaMe, che invece tiene in considerazione un raggio più limitato di chilometri, per esempio nell'arco di 10 chilometri, per esempio intorno alla zona in cui ogni persona abita, oppure a seconda del segnale GPS in cui una persona si trova, dove vengono nel dettaglio segnalati il numero di casi presenti in quella determinata zona. Quindi, per esempio, io se mi collego a questa app, mi connetto a quest'app da casa, riesco a sapere nella zona in cui abito il numero di persone che hanno avuto dei contagi. In più, esistono, insomma, naturalmente attraverso i siti, il sito internet della città di Seoul, è possibile in questo caso rintracciare ulteriormente tutti i casi presenti a Seoul, nonché avere poi delle informazioni relative invece all'andamento del paese, però naturalmente il sito della città di Seoul è limitato alla città stessa. E poi ogni circoscrizione, quindi ogni chiamiamolo quartiere in cui le persone abitano, presentano dei siti internet nei quali ancor più nel dettaglio sono fornite delle informazioni riguardo alle persone che sono state contagiate e i loro relativi spostamenti, segnalando quindi la loro presenza in determinate zone, in determinate aree e quindi invitando le persone a stare attenti laddove avessero frequentato quelle aree, durante, insomma, il passaggio della persona infetta. In aggiunta, le dico un'altra cosa: noi riceviamo costantemente dei messaggi dalla Protezione Civile, in cui veniamo aggiornati, sempre limitativamente ovviamente alla città di Seoul e la zona di residenza più o meno, però in un arco abbastanza ampio, eventuali nuovi casi oppure eventuali segnalazioni di persone che potrebbero essere contagiate e quindi con diciamo relativi spostamenti, non eccessivamente, però comunque, per esempio, se è stato ricoverato un paziente presso un determinato ospedale in un determinato giorno, le persone vengono informate della sua presenza in quell'ospedale e quindi se nei giorni successivi, per esempio, alla degenza del paziente, per un motivo o per un altro, ci si è recati all'ospedale, dice: state attenti perché se manifestate dei sintomi influenzali o qualcosa del genere, fatevi controllare. Questo è il senso. Allora, va detto che queste persone non vengono segnalate con nome e cognome, ma è tutto anonimo, ci viene scritto positivo numero 47 e viene indicata la traccia. L'installazione di queste applicazioni è volontaria, ma questi SMS vengono mandati a tutta la popolazione. Con quale grado di precisione questi sistemi possono operare? Allora, viene inserito il nome del ristorante, del negozio, del cinema dove la persona infetta che ha frequentato. Viene inserito questo, quindi si viene a conoscenza precisamente dove era quella persona. Per esempio, la settimana scorsa c'è stato un ragazzo che ha frequentato un cinema e quindi il nome del cinema è stato divulgato dicendo: guardate, tale giorno, questo spettacolo, questo determinato orario, c'era questa persona, aveva la mascherina, però si è trovato ad essere poi infetto e quindi se avete in quel giorno assistito a questo spettacolo, state attenti perché potreste essere venuti in contatto con lui. Allora, va detto per concludere che il concetto di privacy che noi conosciamo in Europa, non dico che non esiste in Corea, ma è molto diverso. Sentiamo ancora, grazie a Cardo. Che tenga conto che tra i vari servizi di videosorveglianza, poi con la localizzazione dei GPS, loro sanno perfettamente ognuno di noi dove si trova in qualsiasi momento. E questo indipendentemente dal coronavirus, ma è un qualcosa che esiste in Corea da tanti anni. Quindi indipendentemente dal coronavirus, è qualcosa alla quale loro sanno, a livello governativo, sanno perfettamente ognuno di noi dove si trova. Il concetto di privacy quindi è un po' diverso. Non esiste. Quindi indipendentemente da questa situazione, perché la protezione civile avvisa anche per altri eventi, che, tipo in caso di incendio oppure in caso di disastri, insomma, questa sorveglianza, ecco, è abbastanza frequente in qualsiasi frangente. Ovviamente si può usare la tecnologia, ma il rispetto delle regole, la disciplina delle popolazioni asiatiche è fondamentale per riuscire a sconfiggere la diffusione del virus o comunque rallentare la diffusione del virus. Dicevo, si può usare la tecnologia, ma ad esempio se hai un'applicazione perché lo Stato vuole controllarti nel rispetto della quarantena, per controllare se stai in casa, è ovvio che uno può lasciare il telefono in casa, uscire. È anche vero che in questi paesi ti arriva 2-3 volte al giorno una telefonata per verificare se sei in casa, ma uno dopo la telefonata potrebbe uscire, è difficile che ti arrivi una telefonata dopo 3 minuti. A Singapore hanno fatto una cosa ancora più spinta, nel senso che ti chiedono di fare delle fotografie, di mandare delle fotografie per verificare se sei effettivamente in casa. Però è ovvio che se diciamo di fronte a un popolo che non è disciplinato, le cose si complicano. Comunque seguiremo questo dibattito, vedremo che cosa succederà anche la prossima settimana. Penso che si vada verso l'utilizzo di questi sistemi, ma molto probabilmente su base volontaria, cioè verrà chiesto alle persone di installare un'applicazione, quindi di accettare il fatto che si possa essere che la posizione possa essere tracciata, soprattutto oltre che per il rispetto della quarantena, soprattutto per poi fare una serie di incroci di dati per capire con chi si è incontrata una persona che poi risulta infetta. Quindi ricostruendo anche la storia delle posizioni. Dunque, ma al di là di questo caso, vorremmo indagare sulla tecnologia e su che cosa permette di fare la tecnologia. Saluto Antonino Famulare, che è fondatore di GeoUnique, che è una startup che sviluppa sistemi di analisi dei dati basati sulla posizione degli smartphone, quindi è un esperto di geolocalizzazione. Benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo dalla rete di telefonia mobile. Sappiamo che la rete di telefonia mobile è fatta di tante antenne sparse sul territorio, molto più dense in un territorio urbano, molto più rarefatte invece in territori di campagna, lontani dalle città, ma la rete ovviamente sa molto dei nostri smartphone. Che tipo di informazioni può avere la rete di telefonia mobile? Allora, la rete di telefonia mobile può conoscere la posizione del device per il semplice fatto che il device comunica costantemente con una delle celle più vicine alle quali appunto può connettersi per chiamate o dati. Quindi fondamentalmente dal momento che la cella conosce i device connessi, sa quali sono i device nell'intorno della cella. Ora è evidente che la cella ha una, diciamo, possiamo immaginare la copertura di una cella, per semplificare, come un cerchio attorno alla cella di raggio variabile, e quindi la cella sa soltanto che il cellulare si trova all'interno di quel cerchio. Con tecniche un po' più avanzate è possibile stimare la distanza del cellulare dalla base station, tecnicamente. Quindi questo è quello che permette di fare. Ovviamente poi qual è l'accuratezza di questa posizione? Dipende ovviamente dall'ambiente. In ambienti urbani dove le celle sono molto dense si può arrivare anche nell'ordine anche sotto i 100 metri, anche se tendenzialmente siamo sempre almeno sui 100 metri. In ambiente extraurbano invece l'accuratezza è molto ma molto meno granulare. Tendenzialmente comunque, dovendo mettere una label fra virgolette a questo tipo di geolocalizzazione, direi nell'ordine delle centinaia di metri come accuratezza. La posizione si può ricavare anche con la famosa, ogni tanto si sente dire, triangolazione delle celle? Ma allora, lo smartphone è connesso ad una cella. Ovviamente poi è possibile, in base a determinate circostanze, fare una triangolazione che può essere fatta sia lato network che lato cellulare, ma di base diciamo lo smartphone è connesso ad una cella soltanto. Poi ovviamente se lo smartphone cambia cella è possibile che appunto lato rete ci si dica lo smartphone ascoltava praticamente contemporaneamente sia questa che quest'altra, e quindi sta probabilmente nell'intersezione. Però non è automatico fare una triangolazione, cioè non è la cosa più, non avviene automaticamente. Lato smartphone invece la triangolazione di fatto non avviene quasi mai, lo si può vedere anche con un semplicissimo esperimento, cioè se lanci Google Maps, disattivi il Wi-Fi e cominci a muoverti, disattivi il Wi-Fi, disattivi il GPS e cominci a muoverti, vedi che il cellulare si muove a scaglioni di diverse centinaia di metri, quindi non c'è un continuo processo di interpolazione, c'è più che altro un'assegnazione della posizione ad una o ad un'altra cella. Poi non escludo che alcuni smartphone possano fare qualcosa di più smart, ma tendenzialmente, diciamo, la triangolazione lato mobile phone avviene poco o male. E che tipo di dati possono essere messi a disposizione? Immagino che, visto che in questi giorni si è parlato di persone che si muovono all'interno di un'area urbana, in maniera ovviamente anonima sono stati raccolti questi dati, questa è un'attività che si può fare con questo tipo di informazioni raccolte dalla rete mobile, quindi dagli operatori di telefonia mobile. Sì, ovviamente sì. Poi, ancora una volta, è necessario capire quanto vuoi scoprire, cioè se vuoi scoprire se un utente si sta muovendo, questo vuoi farlo con ragionevole accuratezza, puoi stabilirlo con ragionevole accuratezza soltanto andando a guardare il fatto appunto che un utente abbia o meno cambiato la cella con la quale è connesso costantemente. Quindi, a meno che gli spostamenti non siano minimi, del tipo vado al panificio sotto casa, in quel caso è plausibile che non ci sia un cambio di cella. Se ti sposti di qualche centinaia di metri, da qualche centinaia di metri in su, vedi ovviamente che l'utente si sta spostando. Passando sul terminale, quindi sul nostro smartphone, che tipo di tecnologie ci sono per raccogliere informazioni sulla posizione e poi vediamo anche che cosa ci si può fare con quei dati. Chiaro, quindi cambia completamente lo scenario se invece si parla di quello che si può fare lato smartphone. Fino a questo momento abbiamo parlato di quello che si può fare lato rete, cioè un provider di connettività fondamentalmente. Lato smartphone invece ci sono degli accorgimenti evidentemente di natura diversa. Il metodo classico di geolocalizzazione, quello che esiste da più tempo, è evidentemente il metodo basato sul GPS, che permette appunto, mediante la stima della distanza da satelliti in orbita, di identificare la posizione del device. È una tecnologia che ha una buonissima accuratezza in determinate circostanze. Ad esempio, in ambiente extraurbano, se non ci sono palazzi, si riesce ad avere una precisione anche nell'ordine di pochi metri. Caso diverso, invece, quando sei in ambiente urbano. In ambiente urbano, con palazzi molto alti, o al chiuso, non hai quello che si chiama light of sight, quindi del satellite, quindi di fatto non riesci a localizzarti. In quel caso il GPS non funziona. Certo, quando parliamo di GPS ovviamente parliamo anche delle cose più nuove, tipo Galileo o anche dei GLONASS russi, cioè gli smartphone mettono assieme tutti i dati per cercare di avere delle posizioni un po' più precise. Sì, ovviamente poi, esatto, poi ovviamente ogni smartphone può o meno implementare delle tecnologie di GPS più o meno nuove, però tendenzialmente oggi diciamo, l'accuratezza che si riesce a raggiungere con uno smartphone commerciale anche di alta fascia, comunque sono sempre nell'ordine dei 5/10 metri. Se sei proprio, come dire, in mezzo alla strada, senza palazzi in prossimità, riesci a scendere al di sotto. Però oggi, ecco appunto, adesso in questo momento il GPS ha dei limiti intrinseci, diciamo, che sono legati appunto al fatto che in ambiente urbano non riesce ad essere più preciso di tot, ecco. In futuro sicuramente potranno migliorare con nuovi sistemi di GPS che verranno deployati successivamente, che verranno poi diciamo, resi intellegibili agli smartphone, cioè gli smartphone verranno resi capaci di leggerli e di interagirci. Oltre al GPS, che cosa si può utilizzare sullo smartphone per raccogliere dati sulla posizione? Sempre a livello di sistema operativo, la tecnologia che viene più spesso usata, soprattutto a livello urbano, è quella basata su Wi-Fi. Funziona in modo diverso, cioè in questo caso non è un sistema di location universale come il GPS, è più che altro invece, cioè, o meglio, rispetto ad un sistema di riferimento universale, ma è legato alla capacità dello smartphone di localizzare, grazie a dei database fondamentalmente operati dai produttori di smartphone, quindi dei sistemi operativi da Google e da Apple, sento un wifi, so dove si trova questo wifi e quindi localizzo il mio smartphone in prossimità di quel wifi. Quindi, diciamo, l'ascolto del wifi, soprattutto in ambiente urbano, o quando diciamo il GPS non ha una buona copertura, permette una localizzazione che anche in quel caso va nell'ordine dei 5-10 metri o 10-15 metri, ecco, quindi si riesce ad essere molto precisi anche dove il segnale GPS non riesce a dare l'accuratezza necessaria. Chiaro, e lo smartphone non deve necessariamente essere connesso a quella specifica rete wifi, cioè basta che la veda. Assolutamente, sì. Cioè, lo smartphone sa quali wifi ci sono intorno a lui, può quindi mandare come se fosse una sorta di fingerprint della location in termini di wifi ad un sistema terzo che diciamo, sa qual è il punto che corrisponde a quel fingerprint di wifi rilevato in quel momento. Senti, questi dati rimangono sul nostro smartphone, cioè eventualmente siamo noi che dobbiamo dare il permesso a qualcuno di accedere, cioè siamo noi che cediamo i dati, sono sul nostro smartphone. Allora, queste sono funzionalità che vengono fornite e gestite a livello di sistema operativo. Quindi il sistema operativo in teoria ha accesso a questo tipo di informazioni. A livello applicativo, le app devono evidentemente richiedere, da un punto di vista tecnico, un permesso alla localizzazione che prescinde dal modo in cui venga determinata la localizzazione. Quindi potrebbe essere Wi-Fi, potrebbe essere GPS, potrebbe essere 3G, ovvero la localizzazione della cella. Diciamo, se l'applicazione chiede e ottiene il permesso alla localizzazione, può accedere a questi dati. Però A quel punto, cioè i dati. siamo noi che comunque diamo il permesso, cioè mentre sulla rete l'operatore ha a disposizione quelle informazioni, quello che tu ci hai spiegato fino adesso è sul nostro telefono ed eventualmente siamo noi che diamo l'autorizzazione. A livello applicativo sì, a livello di sistema operativo ovviamente no, perché il sistema operativo non ha. Oddio, sì, Sì, però puoi diciamo ritirare il permesso a livello di sistema operativo, sì, però dico, però poi. cioè, chi è che può accedere al sistema operativo se io ho in mano il telefono? A meno che non, come dire. I costruttori di sistema operativo e poi le app devono chiedere il Ah, consenso, evidentemente. C'è sì, assolutamente un consenso però da chiedere, diciamo certo. che Google e Apple non è che accedono al mio smartphone per sapere le posizioni. Ecco, Non c'è evidenza di questo che io sappia, quindi non questo è posso escluderle, però importante. non posso. Sì, certo. Sì. Sì, tecnicamente sì, però diciamo che ci sono tutta una serie di norme che dovrebbero impedirlo, chiaro. Quindi a questo punto tutte queste informazioni che vengono raccolte dal sistema operativo io le posso gestire con un'applicazione, con un'app. Esatto, quindi un'app deve richiedere appunto tramite il sistema operativo il consenso per l'accesso alla posizione. A quel punto l'app può accedere a tutte le posizioni e si possono fare diversi utilizzi che a quel punto prescindono da un consenso puramente tecnico e lì si entra invece in un consenso diciamo per finalità di utilizzo che è quello che viene ormai normato dal GDPR, evidentemente, no? Quindi a quel punto l'app può accedere alle posizioni, il cosa possa farne non ha più a che vedere con la tecnologia, ha a che vedere con la finalità di utilizzo per la quale si richiede l'utilizzo della posizione. Senti, lo smartphone può capire o la rete può capire se io sono al primo piano o al decimo piano di un palazzo? Alcuni smartphone permettono di avere quella che si chiama vertical accuracy, che di fatto è una stima dell'altezza che viene determinata mediante degli strumenti interni. Ovviamente poi non ti dice primo o secondo piano, dirà una stima dell'altezza che può essere poi diciamo come dire, associata ad un piano. Certo, a meno che ci sia un grattacielo e ad ogni piano ci sia una picocella dell'operatore e quindi si sa a quale cella sei agganciato. E il futuro sarà sicuramente, con 5G sarà necessariamente così. Ecco, questo sicuramente è una. Se uno spegne, diciamo, il wifi, il GPS, e esagero, spegne anche l'antenna che si collega alla rete, a quel punto quello smartphone non è più raggiungibile da nessuno, ma nemmeno si sa dove è la posizione. Ovviamente, ovviamente. Cioè, è una banalità, ma come dire, Sì. faccio una No, domanda. ma dico ovviamente nel senso che può essere fonte di dubbi leciti da parte di un utente, dire ma non è che magari sono tracciato anche quando veramente ho spento tutto. No, non è così. Ovviamente nei momenti in cui o si tolgono i consensi alla geolocalizzazione si toglie, appunto si spegne il telefono o non c'è connessione, ovviamente non si viene tracciati. Molto bene, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. A presto. E questa era la voce di Antonino Famulari, fondatore di GeoUnique. Ovviamente abbiamo parlato di quello che la tecnologia che noi abbiamo in mano e le tecnologie di rete permettono di fare. La raccolta di questi dati e l'utilizzo di questi dati è soggetto ovviamente a regole piuttosto stringenti per quanto riguarda l'Europa. Semmai siamo noi che autorizziamo le applicazioni e quindi i fornitori dei vari servizi che noi utilizziamo tramite queste applicazioni a utilizzare i dati, a volte magari senza accorgerci che cosa accettiamo. Questa è una distinzione, questa è una sottolineatura importante. Continueremo anche la prossima settimana su questo dibattito, vedremo se continuare su questo fronte, perché c'è un dibattito molto acceso sul bilanciamento, anche tutti le autorità europee per la privacy si stanno interrogando, si sono già in qualche modo espresse e molte posizioni, sostanzialmente riassumendole, dicono dobbiamo trovare un giusto bilanciamento tra il momento drammatico, emergenziale che stiamo vivendo, ma la giusta tutela della privacy, anche perché dobbiamo cercare di fare in modo che qualsiasi cosa che venga decisa sia temporanea solo per questo momento che stiamo vivendo. Siete all'ascolto di 2024, siete su Radio 24, adesso abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco e parleremo di elettrodomestici. Visto che stiamo in casa molto tempo, parliamo delle macchine che ci aiutano proprio in casa. A tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo 2024 e radio24.it. Anche questa puntata è disponibile attraverso il nostro sito internet, la nostra applicazione e anche le tante applicazioni di terze parti a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast per riascoltare il nostro e tutti i podcast che preferite, desiderate, i vostri preferiti. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Rigorosamente a distanza, ma non a distanza nello stesso luogo, tu a casa e io non in uno studio, quindi siamo sicuri, sì, certo. da questo punto di vista. Rispettiamo il decreto. Esattamente. Quante volte, chiacchierando per trovare un tema oppure per decidere se parlare di una cosa o di un'altra, io dico, e anche tu dici, dovremmo parlare di elettrodomestici, ma poi non se ne presenta mai l'occasione perché rincorriamo sempre le notizie e le novità. Quindi oggi questo è uno degli obiettivi che vorremmo portare a casa. Sì, perché di elettrodomestici troppe volte si dice che sono delle commodity, come vengono chiamate, cioè degli apparecchi che devono semplicemente funzionare e vengono sostituiti quando si rompono. È stato vero questo per decenni, quindi non è che sto proprio dicendo che siano un oggetto del desiderio, però adesso che siamo anche vincolati a casa in moltissimi, ce ne accorgiamo. Gli elettrodomestici in realtà fanno parte della nostra vita e offrono sempre più, soprattutto negli ultimi anni, un sacco di cose molto interessanti, di funzionalità molto interessanti e molto nuove, direi quasi digitali. E questo, per certi versi, in un mondo che in realtà negli anni precedenti, nei decenni precedenti, è stato molto stabile, molto statico, è una grossa novità. Esatto, e quindi chiediamo scusa agli ascoltatori perché non ne parliamo mai, certo non è un tema facilissimo, ma uno degli obiettivi di questa chiacchierata, di questa puntata, è anche quella di raccontare alcune delle novità principali per poi magari tornare su un tema, su un argomento, su un particolare prodotto. Devo anche dire, Gianfranco, ti chiedo conferma, tu che hai sempre connessioni con il mondo della distribuzione, che in questo momento un sacco di cose che tipicamente stanno in casa, quindi elettrodomestici in primis, ma anche tutto il mondo dei computer, delle stampanti, del networking casalingo, sta andando molto bene sui negozi online, principalmente online. Sì, sui negozi online finché la distribuzione regge, perché c'è anche un tema di centri logistici bloccati, quindi questo è un problema per l'online. Ormai nessuno è più in grado, neanche Amazon, grande specialista, è più in grado di offrire consegne né in giornata ma neanche il giorno dopo, ormai si viaggia quasi di settimana in settimana. Però di certo abbiamo visto tutto quello che riguarda le teleconnessioni e il collegamento, quindi sicuramente i notebook, le stampanti, perché di colpo ci siamo accorti, molti si sono accorti che la stampante che magari si era rotta qualche anno fa non è più stata sostituita, quella di casa, invece di colpo serve per stampare magari i compiti dei bambini o per ovviamente magari stamparsi l'autocertificazione che in questi giorni serve. E quindi questi beni stanno andando molto molto bene, e anche ovviamente gli elettrodomestici, più i piccoli dei grandi, che sappiamo che richiedono l'installazione, ma la vera cosa che sta accadendo è che usandoli più spesso, perché si è passati magari da fare 4-5 pasti a casa a settimana a farne 14, si è passati da lavare magari meno a lavare di più, e quindi ci siamo accorti magari dell'inadeguatezza di qualche acciacco che i nostri elettrodomestici hanno, e quindi molti stanno programmando, non appena possibile, di fare una bella sostituzione. Senti, a proposito di elettrodomestici, il primo che mi viene in mente è la lavatrice, a cui può seguire poi anche l'asciugatrice, o in alcuni casi lo stesso, cioè i due servizi sono condensati in uno stesso apparecchio. Però è vero che ci sono sempre alcune novità sfiziose, sexy, ma mi verrebbe da dire, la lavatrice tipicamente che cosa mai ci propone negli ultimi anni? Cioè, qual è la novità vera, ad esempio, nel mondo del lavaggio? Beh, molti propongono come novità digitale la lavatrice, questo vale per tutti gli elettrodomestici, la connessione a internet, la possibilità di controllarla con un'app, e io devo dire che non mi sembra che sia assolutamente decisivo, anzi... Soprattutto in questo momento che siamo in casa, quindi chi se ne frega di controllare a distanza un elettrodomestico. Sì, certamente, ma comunque sia la lavatrice va scaricata a mano, se io potessi con un tasto far stendere i panni forse avrebbe un senso, ma siccome ancora questo non si può fare... Sì, ma questo effettivamente hai fatto bene a ribadirlo, ma lo abbiamo detto più volte, nessuno, ma questo poi... diciamo a microfono spento o dietro le quinte lo dicono gli stessi produttori, cioè non si è trovata ancora la vera ragione, la vera motivazione per connettere un elettrodomestico. Alcuni sì, forse qualcosa ce l'hanno, però effettivamente insomma, questo lo diamo un po' per già raccontato, ma se noi volessimo... No, ci sono delle bellissime novità. Tipo? Ma per esempio, banalmente, il dosatore. Il dosatore dei detersivi e dell'ammorbidente è una cosa che cambia molto l'esperienza di utilizzo. Cioè si tratta di un serbatoio ben più capiente di quello che serve per un singolo lavaggio, che permette di contenere, quindi direi l'intero barattolo o giù di lì di detersivo o di ammorbidente liquido, e questi vengono dosati automaticamente dalla lavatrice secondo il carico. Quindi non devo ogni volta fare l'alchimista, mettere dentro un misurino, due misurini, ci pensa assolutamente lui, tra l'altro ovviamente risparmiando, perché pesa, le lavatrici moderne pesano il carico, quindi hanno un sensore sul cestello che pesa il carico, a seconda del peso del carico e anche a seconda della durezza dell'acqua, devo dire, quindi miscelando tutti questi dati, dosano correttamente sia l'ammorbidente che il detergente. Quindi questo è sicuramente un piccolo passo avanti, ma ce ne sono altri, come per esempio l'utilizzo, e questo molto interessante ovviamente in questo periodo, l'utilizzo di ulteriori modalità di lavaggio oltre all'acqua classica per migliorare l'igienizzazione anche alle basse temperature. Sappiamo che se dobbiamo lavare un lenzuolo bianco lo buttiamo in lavatrice a 90 gradi, sicuramente si igienizza, ma se abbiamo un delicato, un capo colorato, qualcosa che non può tollerare un lavaggio a caldo, Per esempio l'utilizzo dell'ossigeno attivo, che poi è l'ozono, che ha un alto potere disinfettante. Ecco, l'ozono insufflato praticamente nel cestello consente di raggiungere dei livelli di igienizzazione molto più alti rispetto a quelli normali, pur con un lavaggio a bassa temperatura. Quindi tutte queste cose e molte altre, come per esempio non è che ci vuole il serbatoio per l'ozono, cioè la macchina lo riesce a produrre da sola, giusto? La macchina sintetizza l'ozono dalle molecole di ossigeno che ci sono in atmosfera, sì, e sì. Quindi praticamente le autogenera, non ha problemi di questo tipo. Vapore, che questa è un'altra cosa interessante. Sì, il vapore ha anche lui la stessa potenzialità, per certi versi, anche la potenzialità di distendere le fibre, elevare gli odori, cioè anche altre cose che peraltro anche l'ozono, e ci sono delle lavatrici che sono in grado, qui generando del vapore che non esce a 100 gradi, ci può essere un vapore anche a una temperatura più bassa, quindi che non rovina i capi, e anche questo consente, usato in combinazione o non in combinazione con il lavaggio tradizionale, di avere livelli di igienizzazione migliore. Come anche le asciugatrici in realtà hanno dei programmi specifici che permettono di asciugare in maniera sanificante, diciamo così, cosa che ovviamente fa anche il sole, perché ricordiamoci che il vecchio trucco della nonna di stendere i panni al sole li espone ai raggi ultravioletti del sole, sono quelli che sanificano meglio probabilmente di molte altre cose. Il problema è che nelle nostre città, oltre ai raggi ultravioletti, c'è anche lo smog e tutto il resto, e in più il sole ha un piccolo difetto, scolorisce i capi, quindi per i capi colorati ancora una volta il sole non va bene. Senti, queste opzioni di queste macchine sono solo sui modelli medio-alti o ormai sono diffusi anche i modelli poco, cioè molto economici? No, sono generalmente sui modelli più importanti. Diciamo che i modelli più economici sono ancora macchine un po' più tradizionali, cioè non introducono queste nuove tecnologie. Però, visto che quando si sceglie sempre tra un ambito, un range di macchine molto ampio, perché i modelli in commercio sono tantissimi, se dovessi proprio dire, preferirei spendere 100 euro in più per una di queste funzioni che 100 euro in più per il fatto di avere la lavatrice connessa alla mia app. Però ognuno poi fa le sue scelte. E? Devo dire che c'è un'altra funzione che però è più trasversale, che non riguarda soltanto le lavatrici, ma è quello di avere un motore un po' più evoluto dei motori elettrici tradizionali. Ne abbiamo parlato anche recentemente su un articolo, ma di avere un motore, diciamo, a controllo digitale o comunque con un inverter, così si chiama. Ecco, in effetti di inverter si sente parlare da un po' di tempo, applicato a vari elettrodomestici. Di che cosa si tratta? Ecco, non è un qualcosa che fa andare il motore in retromarcia, come potrebbe pensarsi inverter, uno può pensare a una cosa di questo tipo. Assolutamente no. L'inverter è praticamente un sistema, lo dico in maniera molto semplice, mi scuseranno i tecnici, ma voglio farmi capire da chiunque, che permette di modulare in qualche modo la velocità e quindi l'intensità che con la quale faccio girare un motore elettrico. Perché? Perché i motori elettrici nel mondo tradizionale non è che andavano a tante velocità, cioè la velocità era dettata dalla frequenza della corrente, che da noi è 50 Hz, quindi 50 cicli al secondo, e dal numero di avvolgimenti che c'erano sul motore. Quindi, per esempio, avevamo 1, 2, 3 selettori per avere una velocità, due velocità, tre velocità. No, ecco, e questo non faceva nient'altro che, come dire, inserire dei nuovi avvolgimenti nel circuito in modo tale che il motorino così girasse più o meno velocemente. Ecco, nel mondo degli inverter, invece, il motore gira anche gradualmente, anche lentissimo, e poi più veloce, e poi velocissimo. In questo modo, tra l'altro, anche in una modalità senza spazzole, quindi che permette al motore di essere silenzioso, più efficace, cioè girare precisamente al numero di giri, alla velocità che serve in quello specifico momento, non consumare troppa energia, quindi risparmia energia ed è anche molto più silenzioso. Questo non è applicato solo alle lavatrici, che in questo caso spesso hanno il motore cosiddetto direct drive, quindi applicato direttamente al cestello e non con la cinghia, il che diminuisce anche le vibrazioni e tutto il resto, ma si applica a tanti elettrodomestici diversi che fruiscono di questo inverter in maniera diversa, ma sempre in maniera positiva. Mi viene in mente, per esempio, i frigoriferi sono molto avvantaggiati, o i forni a microonde. Sì, perché pensate a un frigorifero. Un frigorifero, forse qualcuno si ricorderà, i frigoriferi che attaccavano e staccavano il compressore, no? Si sente il rumore che tacca e poi il rumore che si ferma. Moltissimi in casa hanno ancora frigoriferi di questo tipo. Tra l'altro, lo spunto della partenza del compressore dà anche qualche volta su impianti elettrici un pochino meno validi quel colpetto di abbassamento della luce, magari dell'intensità della luce, proprio si chiama extracorrente, fondamentalmente dà uno spunto troppo forte alla partenza e poi dà anche dei problemi di rumorosità oggettivamente. Sì, sì, questi frigoriferi sono molto diffusi, ahimè, in molti alberghi, anche in ottimi alberghi, e a volte io stacco proprio il frigorifero. Eh sì, perché partono di notte. Quando partono? Quando la temperatura interna scende sotto un certo, anzi sale, scusate, perché sopra un certo livello. A quel punto il compressore va a massima velocità, cioè non ha modo di modularsi, va a tutta birra, raffredda fino a che raggiunge una temperatura sufficientemente bassa e si spegne. Per cui si spegne. Perfetto. Dopodiché resta spento, il frigorifero a quel punto resta completamente spento e quindi pian piano si riscalderà, piano piano, a seconda di quante volte lo apro, e poi ripartirà. E dopodiché riparte. Perfetto. Con l'inverter invece come cambia? Con l'inverter il compressore va sempre piano, quindi tiene sempre il freddo giusto, il che si sostanzia col fatto che non fa rumore, che consuma meno in realtà, perché tiene un regime migliore e non al massima forza, tanto per intenderci, ma soprattutto tiene una temperatura più costante, perché con l'inverter che cosa succede? Con l'inverter non ho più gli sbalzi di temperatura, tiene sempre la temperatura giusta. Senza inverter, come abbiamo descritto prima, la temperatura sale, attacca il compressore, diventa tutto freddo, dopodiché si riscalda e quindi io ho un dente di sega, praticamente ho un andamento in cui la temperatura oscilla e non è ovviamente il massimo anche per la conservazione dei cibi. Quindi migliore conservazione, minore consumi e anche più silenziosità, quindi meglio di così si muore. Lo stesso per i forni a microonde. Il forno a microonde, quando noi regoliamo la potenza, sul 90% dei forni a microonde, forse anche qualcosa di più, quello che succede è che il forno a microonde decide quanto andare alla massima potenza, però sempre alla massima potenza, cioè se io metto o acceso o spento, sì, se io metto a mezza potenza lui per metà del tempo starà spento e per metà del tempo andrà. Se ci si avvicina al forno a microonde si sente anche l'emettitore, l'antenna a microonde che emette, fa un leggero suono, generalmente un ronzio, ecco, diciamo così, e questo ronzio si sente andare per 5 secondi, poi si spegne per altri 5 secondi, poi si accende per altri 5 secondi. Questo è un forno senza inverter. In forno con inverter invece modula la sua potenza e quindi può, come dire, sparare le sue microonde alla intensità che io ho prescelto per la giusta cottura, che vuol dire non dare delle botte incredibili di calore e poi fermarsi, ma dare gli impulsi giusti per una cottura veramente costante. E lo capisce chiunque che viene una cottura migliore. Non è che se io prendo un mio pesce, lo voglio cuocere e lo metto sulla lava e poi lo levo e poi lo rimetto sulla lava e poi lo levo e poi lo rimetto sulla lava. Sì, vale anche per la griglia o per il fornello. Sì, sì, certamente. Quindi una gestione più adeguata dà migliori risultati. L'inverter sta comparendo dappertutto, ma nei vari elettrodomestici lo sta facendo in questi anni. Io vorrei vedere quanti dei nostri ascoltatori hanno a casa elettrodomestici già equipaggiati con l'inverter, quindi con un motore poi digitale, oppure quanti hanno invece un apparecchio elettromeccanico tradizionale che però offre sì. delle prestazioni molto più basse. Qualcuno, quando parla, si parla di digitalizzazione degli elettrodomestici, pensa al display, ai tastini. No, invece in questo caso proprio parliamo del motore. Display, dei tastini, no? Quindi, badiamo la sostanza. Anche perché questa tecnologia poi effettivamente porta un beneficio molto concreto sulla funzione principale o della lavatrice o del forno a microonde o del frigorifero, eccetera, perché insomma, come tu ci hai spiegato, quindi fondamentalmente le caratteristiche dell'inverter sono maggiore silenziosità, un risparmio energetico che comunque è molto interessante e soprattutto un maggiore controllo della funzione che deve fare, cioè scaldare, raffreddare, eccetera, eccetera. Beh. Tant'è vero che uno degli impieghi degli inverter più classici e consigliabilissimi è il climatizzatore. Certo, sì, sì. Climatizzatore che se no dà delle botte di freddo e poi si tranquillizza, delle botte di freddo e poi si tranquillizza. Meglio avere la temperatura richiesta in maniera costante, equilibrata, senza neanche mandare tra l'altro il compressore sotto stress, perché non lavora mai al massimo regime, a quanto serve. Lavorerà al massimo regime quando ci sono 40 gradi, vabbè, a quel punto spingerà per forza. Certo. Senti, allora, uno degli obiettivi di questa chiacchierata è fare una carrellata su alcune novità, poi stimolare un po' di curiosità, ecco. Esatto, invitiamo anche gli ascoltatori a dire: mi è piaciuto quello, tornate a parlare di quell'argomento in modo particolare. Visto che hai citato i frigoriferi, c'è qualcos'altro di particolarmente innovativo che negli ultimi anni si è presentato nel mondo dei frigoriferi, al di là dell'utilizzo dei motori ad inverter? Ma ci sono, per esempio, dei layout interni molto interessanti, con dei cassetti che sono ideali per la carne e per il pesce, che sono praticamente a 0 gradi. Sappiamo che il frigorifero è intorno ai 4 gradi, mentre il congelatore sta a meno 18, ma ci sono alcuni alimenti che beneficiano in realtà di una temperatura più vicina allo zero, che non ghiacci, ma non così alta, si fa per dire, ovviamente, come 4 gradi. E per esempio ci sono questi cassetti specifici che stanno per esempio a 0 gradi. Ci sono dei cassetti chiller che permettono di portare a temperatura ghiacciata una bottiglia due lattine in pochi minuti. E questo è molto importante la volta che arrivano degli ospiti a casa, non in questo periodo, ma torneranno, certo, ad arrivare. Ti sei dimenticato di mettere in fresco. E non si ha nulla in fresco, sì, per esempio. E così via. Ci sono anche, e questo forse è l'unica applicazione che mi viene in mente dell'utilizzo smart degli elettrodomestici, che un po' mi stuzzica, ci sono quelli che hanno all'interno 2 videocamere che ogni volta che si chiude la porta aspettano a spegnere la luce, diciamo così, il frigorifero che ha la luce interna non la spegne immediatamente alla chiusura della porta, e scattano una foto di quello che c'è nella porta e una foto super grandangolare ovviamente di quello che c'è nel vano principale. Queste foto sono consultabili poi dallo smartphone, e quindi magari il dubbio su quante uova mi sono rimaste mentre sono al supermercato può essere sanato velocemente con un'occhiata allo smartphone. Ecco, questo potrebbe essere un'utilità, oppure tra le poche che abbiamo trovato. Sì, oppure diciamo anche in casa ti permette di non aprire la porta, che comunque un altro vantaggio, perché sappiamo che il grande dispendio di energia dei frigoriferi non è nel mantenimento della temperatura a porta chiusa, ma dipende in maniera sensibile dal numero di volte che si apre la porta. Esatto. Proprio per questo motivo alcuni frigoriferi offrono uno sportello frontale ad apertura parziale che permette di prendere cosa? Quello che si prende di più, le bottiglie. Quindi è una porta nella porta che aprendosi dà accesso solo al vano dove ci sono le bottiglie. Per far uscire meno spesso l'aria fresca. Senti, anche in questo caso stiamo sempre parlando di novità che riguardano i modelli almeno di medio livello, giusto? Ma no, in realtà per quello che riguarda alcune cose come il no frost, che è anche altrettanto importante, sì. Il più o meno total o parziale, riguarda oramai anche la stragrande maggioranza dei modelli. Alcuni layout più, un po' più furbi si trovano anche in modelli molto accessibili. Okay. Stessa cosa accade anche per le lavastoviglie, che non hanno magari grandissime novità tecnologiche al loro arco, perché ormai comunque sono molto ottimizzate, funzionano già molto bene, però per esempio hanno dei layout interni molto particolari che permettono per esempio di alzare temporaneamente un cestello rispetto all'altro per ospitare una pentola più grande, oppure sì, avere dei layout particolari per esempio per le posate molto comodi con un cassettino in alto. Questo varia da anche da produttore a produttore, ma ci sono delle soluzioni che rispetto ai modelli di qualche anno fa sono veramente molto intelligenti. Ok, nei minuti che ci dividono dai saluti vorremmo parlare di cottura, perché abbiamo accennato ai forni a microonde, però potremmo parlare di cottura in generale e dove ci sono le novità più interessanti. Allora, velocemente diciamo magari due parole sui forni, perché ci sono delle cose veramente eccezionali per chi magari come me ogni tanto si diverte anche a far finta di essere un piccolo chef. ci sono i forni adesso che sono in grado di combinare in maniera perfetta il calore con la cottura cosiddetta a vapore, quindi l'umido, e in alcuni casi anche col microonde, quindi tre in uno. Ed è una cosa veramente interessante questa, perché il caldo secco sicuramente per quello che permette di avere le crosticine e la parte croccante, però il caldo umido serve molto in alcune fasi di cottura, per esempio nella panificazione, nelle pizze, la prima parte deve essere fatta a umido, quindi serve che il forno sia in grado anche di emettere contemporaneamente del vapore. E poi alcune cotture, penso per esempio alle verdure, alle patate al forno, possono prevedere per esempio una cottura a microonde prima, per poi passare a una cottura più grill per fare la parte grigliata e quindi dare il massimo del sapore anche in tempi di cottura più contenuti. Ecco, questo si ottiene con questi forni super combinati, tre funzioni in uno, che funzionano anche molto bene e che magari hanno anche la sonda già integrata che si infila nell'arrosto e ci dà la temperatura, o meglio si possono addirittura impostare delle cotture a cui la cottura va avanti fino al raggiungimento della temperatura interna data dalla sonda, e quindi sappiamo che il nostro arrosto sarà perfettamente cotto. Tutte queste cose ovviamente in larga parte non si possono fare con i forni più tradizionali, ma devo dire che chi ha provato questi forni generalmente non torna più indietro. Sì. Ci dispiace, vabbè, in generale per la situazione che stiamo vivendo ovviamente, ma quest'anno era previsto all'interno del Salone del Mobile di Milano Eurocucina, che è sempre un'esperienza molto interessante, molto bella, insomma, oltre al fatto che non con la grinta dei nostri amici che presentano smartphone o altre tecnologie simili, ma insomma, quasi ad ogni edizione, una volta ogni due anni, ci sono delle novità abbastanza interessanti. Quindi dovremmo aspettare, non sappiamo a questo punto quando, giusto Gianfranco? Forse prossimo anno. In teoria giugno, però vedremo se si riuscirà a fare. Poi se no c'è l'IFA di Berlino a settembre, anche qui speriamo che si possa tenere. Diciamo che a settembre, a giugno la vedo un po' più difficile, però vedremo. Senti, concludiamo con un breve accenno alla pulizia, anche se devo dire che sulla pulizia è forse il mondo che abbiamo perlustrato di più, perché abbiamo fatto un paio di puntate negli ultimi anni sul mondo della pulizia, soprattutto per quanto riguarda i robot aspirapolvere. Sì, sia robot aspirapolvere che soprattutto aspirapolvere con batteria, quindi senza filo. Oramai sono, direi, lo standard. Sdoganati. Alcuni produttori hanno addirittura interrotto la produzione di aspirapolveri a filo. Non ha più senso, e questo grazie a che cosa? Ma grazie all'utilizzo delle batterie al litio su questi aspirapolvere, che permettono di avere autonomia e potenza a sufficienza. Ovviamente gli smartphone ci sono arrivati qualche anno prima, gli elettromessaggi ci sono arrivati qualche anno dopo, ma sappiamo quanto possano essere performanti queste batterie, e infatti tutta la pulizia oramai è senza filo. Chi ancora va col filo e in questi giorni sta pulendo casa probabilmente potrebbe trarre grande vantaggio dal valutare un acquisto di questo tipo, secondo me. Mi permetto però, prima di chiudere, di tornare un attimo sulla cottura. Ok. Perché non abbiamo parlato, mi sono accorto adesso, di piani di cottura. Ci daremo appuntamento ad una prossima. Il mondo dell'induzione. Il mondo dell'induzione, due parole, le merita. Non tutti l'hanno ancora capito, anche se ormai in TV, in tutte le trasmissioni, lo vediamo dappertutto. Il mondo dell'induzione ha dei vantaggi enormi. Il primo, secondo me, fondamentale, è quello che non c'è fiamma. Al di là del punto, cioè, il punto sicurezza, ovviamente, che è molto molto più alto, perché non c'è neanche possibilità di scottarsi, certo. Ma a meno di non prendere in mano la pentola rovente, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Sì, beh, chiaro. Soprattutto, non essendoci fiamma, la qualità dell'aria in cucina, e parlo soprattutto per i mesi invernali, dove generalmente si cucina con le finestre chiuse, se no si avrebbe freddo, ecco, è molto più alta, perché non essendoci fiamma non si consuma ossigeno. Sì, sì. E questo è molto importante per la qualità dell'aria, ovviamente. La fiamma mangia ossigeno per la combustione, e quindi via via l'aria diventa sempre più viziata. L'altro vantaggio fondamentale dei piani migliori, quindi questa è una tecnologia che si sta implementando solo negli ultimi anni, è quella di avere delle cotture intelligenti, cioè avere un sensore di temperatura integrato nel piano che mi permette di impostare, non so, acqua e ebollizione. Quindi non di mettere il livello di potenza, che magari esagero anche e faccio bollire l'acqua non oltre 100 gradi, perché non ci può andare oltre 100 gradi, ma la faccio uscire magari dalla pentola, ma la tiene precisamente a 100 gradi. E questo è una cosa che con la fiamma ovviamente non si può fare, e con i primi piani a induzione non si può fare, anzi, siccome hanno molta potenza, se uno non stava attento magari scappava via la bollitura e l'acqua usciva dall'acqua con la pasta, che la fa la schiuma ed esce sul piano. Ecco, questo per esempio sono piani intelligenti che a questo punto incominciano a implementare delle funzioni che aiutano veramente nella cottura. Anche queste sono tutte da capire, tutte da studiare. C'è da studiare anche per gli elettrodomestici. Pensa un po' come è cambiato il non mondo. Sono più degli apparecchi semplicissimi, esatto, o semplicistici. Esatto, come questo, una volta. Questo effettivamente è uno dei problemi. Allora, visto che abbiamo a questo punto accennato a molte cose, alcune ce le hai chiarite anche in maniera dettagliata, però insomma, si potrebbe parlare per ore. Ci diamo appuntamento in una delle prossime puntate, anche perché con questo clima casalingo, visto che siamo tutti in casa o comunque nelle immediate vicinanze, perché possiamo uscire e fare un quattro passi, ma veramente nelle immediate vicinanze. E noi salutiamo i nostri amici che ci ascoltano anche molto in podcast in questi giorni, e facciamo così, Gianfranco, ci diamo appuntamento in una delle prossime puntate, magari con uno o due temi da approfondire in maniera ancora più dettagliata. Sì, meglio ancora se gli ascoltatori ci indicano, con tutti i canali che tu sempre racconti in trasmissione, su quali argomenti e su quali elettrodomestici vorrebbero ascoltare gli approfondimenti. Molto bene, perfetto. Anzi, sicuramente ci sarà anche chi dice: non avete parlato di quella cosa. Ah, ma ci sono ancora un sacco di cose. Ci sono per esempio le kitchen machine, adesso che facciamo da mangiare così tante, così spesso. C'è la cottura sottovuoto, che a me personalmente fa impazzire, è qualcosa di meraviglioso. Tutte cose da raccontare. Gianfranco, grazie, a presto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Continuate a scrivermi. 2024 è tradio24.it, oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie per aver scaricato questa versione del podcast. Come dicevo all'inizio della puntata, sono ovviamente dispiaciuto, oltre che per quello che sta capitando al nostro caro paese, a tutti i disagi che dobbiamo subire tutti, e visto che molto spesso molti ascoltatori mi scrivono dicendo io ascolto 2024 mentre faccio sport, spero che in qualche modo riusciate a farlo, ma tendenzialmente o in casa o nelle prossimità della casa, nel cortile, fortunati quelli che hanno il cortile, il giardino, magari un piccolo campo vicino a casa. Però cerchiamo veramente di rispettare le restrizioni che dobbiamo tutti seguire per cercare di uscire da questa gabbia. Ce la faremo sicuramente, coraggio a tutti, in bocca al lupo, speriamo che nelle vostre famiglie tutti stiano bene, ci risentiamo la prossima settimana.